GR24 Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. È ufficiale da ieri il passaggio di Marco Verratti al Paris Saint-Germain per il giovane centrocampista, contratto quinquennale, e oggi verrà presentato ufficialmente. Ora tocca a Ibrahimovic. E ora chiamatelo pure Monsieur Zlatan. Sì, perché da oggi la Parigi del pallone è ai piedi di Zlatan Ibrahimovic. Nel pomeriggio la presentazione ufficiale in una conferenza stampa con il direttore generale Leonardo e il presidente del Paris Saint-Germain Nassar Al-Khelaifi. Accordo triennale con ingaggio annuo di 12 milioni più bonus, che portano lo stipendio dello svedese a 14 milioni a stagione. E la spesa del PSG non sembra finita con Thiago Silva, Ibra e Verratti. Secondo l'Equipe, i parigini punterebbero ora a convincere un'altra ex stella rossonera, il brasiliano Kakà. E il diavolo rischia di perdere anche Robinho, pressato dal Santos. Ma Gagliani ha nel mirino Rolando per la difesa e per l'attacco Dzeko e Tevez, senza escludere due colpi di scena: il prestito dello stesso Verratti dai parigini e la pista sempre calda che porta a Mario Balotelli. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ieri sul fronte Milan ha parlato Daniele Bonera, che ha ammesso Thiago Silva è una perdita importante per la nostra difesa. Sentiamo Bonera. È chiaro che i giocatori importanti, se ti vengono a mancare, insomma, qualcosa perdi, però è inevitabile che la società ha fatto, in un momento particolare anche economico, ma del paese, ha fatto le proprie valutazioni, non penso, a malincuore immagino, perché è inevitabile che quando perdi giocatori come Thiago, sicuro Ibra potrebbe essere, dispiace a tutti, però non. L'unica nostra certezza è quella di guardare un po' quella che è la storia del Milan e capire che ha sempre offerto al proprio allenatore squadre competitive in Italia e in Europa. Tanto la nostra Serie A continua a perdere le sue superstar. Il presidente federale Abete parla di competitività da ritrovare partendo magari dai giovani. Un valore fondamentale che tante volte tutti dimentichiamo è quello della continuità, quindi bisogna riuscire a calibrare la competitività delle nostre squadre con la continuità della loro presenza. Ci sono delle politiche che alcune leghe fanno in maniera più organica, non hanno il vincolo della competitività internazionale o la preoccupazione di dover competere a livello internazionale, come invece avviene per la Serie A, quindi Serie B e prima e seconda divisione, quindi Lega di B e Lega Pro stanno facendo un ottimo lavoro sul versante dei giovani. Ora cambiamo argomento. Ieri ultimo riposo al Tour de France, oggi si sale sui Pirenei. Il Tour riparte dopo l'ennesima scossa tellurica data da un nuovo caso di doping scoppiato alla Gran Boucle. Fatale i giorni di riposo. Il primo, il 10 luglio scorso a Bourg-en-Bresse, viene arrestato in flagranza di reato il corridore francese Rémy Di Gregorio. Nella giornata di ieri, l'UCI, il governo mondiale della bicicletta, ha reso nota la positività del lussemburghese Frank Schleck, positivo ad un diuretico riscontrato nella tappa di Cap d'Agde. Frank, fratello maggiore di Andy, vincitore a tavolino del Tour dopo la squalifica di Contador, ottenne lui stesso un prestigioso secondo posto nella Gran Boucle alle spalle del fratello Andy. Intanto oggi la corsa riprende il proprio cammino, tutti contro il britannico Bradley Wiggins, la maglia gialla. Nibali ha due giorni di Pirenei per ribaltare la situazione in proprio favore. Per Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Po. Infine continua a provocare rumore ed opinioni l'esclusione della pallacanestro Treviso dal campionato di Serie A di basket. Raccapricciante e scandaloso sono i due aggettivi che il presidente del Veneto Luca Zaia ha usato per commentare questa vicenda. Intanto la nazionale è al lavoro per il torneo di qualificazione agli europei con un nuovo capitano, Stefano Mancinelli. Giocare in nazionale è già un orgoglio, essere anche il capitano è un sogno per qualunque giocatore di basket. Sono veramente onorato, ringrazio Simone e tutto lo staff che mi ha dato questo ruolo e spero di ricambiare con dei risultati. Noi siamo una nazionale giovane, con talento, però a livello europeo siamo forse un po' inesperti, quindi dobbiamo cercare di dare sempre il massimo. Ed è tutto per questa prima pagina sportiva di oggi, vi aspetto alle 14 con A Tempo di Sport.